Pathfinder Campus. Podcast italiano, il Let's Play di Pathfinder. Quindi lo faccio io. Allora, sostanzialmente siamo stati per varie ragioni condannati a morte dall'impero di Smeraldo e veniamo trasportati insieme ad altri prigionieri poco raccomandabili, tra cui un nano di cui non ci eravamo accorti quel giorno, a questo carcere di... No, lui è... Che subentra, io non so come io. Era con voi io ero già nella prigione. Nella prigione. Cioè, lui è stato inviato. Ah, ok. Io sono 20 anni. Era già nella prigione. Ah, figo. Ah, non lo sapevo, scusate. Allora, niente. Vari individui raccomandabili veniamo trasportati a questa prigione super sicura dove pare che i soggetti condannati a morte dall'impero vengano bruciati in dei forni, che è l'unico modo possibile per uccidere in questo impero, per eseguire la pena di morte. In realtà scopriamo che si tratta di una città sotterranea in cui è stato allestito un sistema di scommesse, sostanzialmente a mo' di colosseo, gladiatorio. Esatto. Ti vedere le cose. È utile, poi tu hai saggezza alta, metti tanti gradi. Cioè, c'è già tanta gente, c'è già anche lei con perception. Sì, ma lei c'è anche saggezza alta. Beh, anche lei perché è un gasming. Ma comunque però... anch'io, perché... Cioè, però c'è gente c'è infatti. Ma anche senza motive. Visto che ognuno fa il suo. Anche esatto. Senza motive, visto che sono saggezza. Comunque sia, vediamo che il nostro compagno, Yung Kai-shek, prende l'attenzione e intima tutti di servirlo. Per costituire un impero autonomo sotto la pena della morte. Viene deriso e sgozza tutti i presenti, tranne noi, che ci eravamo manifestati quantomeno attenti e non rilanciani. Meno male. Si rivolge a noi per discutere i termini dell'accordo, ma compare questo vecchio dal nulla che scopre una serie di... Dopo aver espresso approvazione nei confronti di Yung Kai-shek, uh-huh. Come se fosse appunto eletto per qualcosa di importante, scopre questi simboli dei danni alla costituzione, no, forza. È un simbolo of weakness. Cioè esatto, simbolo weakness. E noi ne siamo colpiti, sveniamo, ci risvegliamo su questa nave. Uh-huh. Su questa nave, trainata da aquiloni che si spinge lungo il deserto. Dietro di noi una barriera invalicabile di sabbia che non sappiamo come abbiamo oltrepassato, sebbene ci viene un dubbio quando vediamo una nave che precipita e ci viene detto che abbiamo fatto un salto. E niente, e quindi ci viene detto che noi siamo stati sostanzialmente presi oltre la nostra volontà, per eseguire una missione di esplorazione, quanto ho capito. Alla ricerca, non alla ricerca, ma all'esplorazione di una terra particolarmente feconda e ricca di sabbia del tempo, che si chiama... Asratite. Esatto, per l'Asratite, ma fa niente. Ah! Esatto. Ci stava benissimo. Asratite! Stanno guardando qualcosa. Sono veramente, posso attenti. Ti sto prendendo per il culo. Ci sta. Che hobby! Asratite, che scelta. No, ok. Niente, sostanzialmente questo. Veniamo coartati con una minaccia, sostanzialmente. Ognuno di noi, tranne me, che non ho persone care, è stato minacciato di uccidere una persona appunto cara, con la dimostrazione data da un occhio. Quando avrei fatto il background, saprò se farti trovare un occhio o no. Danilo, va bene se ho la cassa con me o sì, magari viene minacciato? Ha detto di sì alla fine. Ok, va bene. Tu no, non puoi avere il tuo fantasma. Scusate, dobbiamo fare un'errata corrige perché la volta scorsa io mi tiravo dietro una cassa che veniva trasportata con me. Ok. Una cassa di dimensioni di 2 metri per 1 metro di ebano. Sì, bella grossa, di ebano. La trascini. Sì, è un sistema di levitazione sotto. Ok. Senza sterno, però. Okay. Sì. Cioè, è un permanent disco a coso. Esatto. E niente, è di ebano, però tutta rovinata, stragraffiata, ridotta proprio male. Okay. E adesso è nella stiva, suppongo. Ah, ecco, io glielo chiedo al tizio e lui mi dice che è nella stiva. Sì, okay. Ecco, oltre che essere esplorativa, ti ricordo, anzi vi ricordo che, cioè, voi dovete seguire comunque una rotta ben precisa. C'è una stella. Ovvero sì. C'è una stella di smeraldo. Ah, giusto. Nel cielo. Sì. No, da quanto pare seguendo quella stella si giunge alle zone più ricche di Asratite e di oasi, perché finora qua intorno comunque, anche se magari c'è tanta Asratite, non ci sono oasi, quindi non puoi stanziarci. Ah, ho capito. Ecco. Questa è la questione. Cioè, voi dovete seguire questa stella. È stato detto tra l'altro che il territorio sarà un po' impervio, ecco. Sì, sì, certo. E che la vostra nave funziona, cioè nel senso potrà spostarsi grazie alla Asratite che lei comunque ha dentro e che dovrebbe bastarvi per circa, non mi ricordo se l'ho detto, ma dovrebbe bastarvi per circa, no, non l'ho detto. No. Ok, allora. Ok. Niente, vi ho detto comunque che avete una grande riserva di Asratite per poterlo attraversare questo deserto, che altrimenti la nave probabilmente andrebbe distrutta. Ah. Vi ricordo anche che se anche delle barriere, mi pare. No, forse non vedi. Cioè sì, è avvolta da una sorta di barriera, diciamo, sì, che appunto evita il danneggiamento per via delle intemperie. E appunto un'altra cosa è che se la nave deve essere distrutta, cioè non va bene, non buono. Anche se qualcuno di voi senza gli altri dovesse tornare indietro, forse non ve l'ho detto questo, ma anche in quel caso verrebbero, diciamo, sommariamente giustiziati tutti. Quindi è fondamentale che torniamo tutti? No, è fondamentale che nessuno però di voi provi a tornare indietro. Questo esperimento è fatto perché così chi ha persone care comunque trattiene quelli che non hanno persone care da... Io credevo, cioè, tornasse anche con la nave e tutto, però senza gli altri, allora giustiziare, minchia che sfiga! No, non bisogna tornare tutti, però nessuno deve, cioè... Tornare senza nave. In questo modo, ad esempio, tu che non hai nessuno... Vengo trattenuto. Cioè, non dovete disertare la missione, cioè, nessuno di voi deve disertare la missione. Nessuno, questo quindi è il concetto. Degli altri. Ok, quindi niente. Quindi, però basicamente siamo noi. Mi ricordo anche un'altra cosa che forse ti sei dimenticato: il fatto che, cioè, lui ha parlato tutto il tempo attraverso Hale Aberton, no? Ah, sì, certo. E che poi quando è morta avete visto la sua vita. Ah, è vero. Ecco. Sì, scusa, è vero, questo era importante. E alla, appunto, come ricordato giustamente, la sessione scorsa si è interrotta con una nave che crollava. Crolla, si spacca la cosa. Dal muro di sabbia. Dietro di voi. Ecco. Dopo questo evento, il primo a parlare è Istral Sesin, un umano con arco che avete sempre... reputato un idiota? Abbastanza, sì. Snobbato, esatto. Proprio. Non reputato un idiota, ma un po' fastidioso, ecco, diciamo così. Per via di maniere che adesso vi risulteranno. Cioè, a breve vi risulteranno. Potrà mai essere peggio della tipa cannibale. Si chiama, scusa? Istral, scritto I-Y Istral Sesin. Vabbè, ragazzi, se non ricordo sui nomi, vi ricordo ogni volta tanto. Ce li scriviamo. Umano. Y Istral. Ed è armato. Comunque, oltre per essere fastidioso, cioè, ha una vista molto acuta e sembra essere un esperto dei viaggi nel deserto. Ah. Ma che cos'era? Dice rivolgendo lo sguardo verso quella cosa. Che è caduta. Non lo so, in teoria per voi, sì, esatto, in teoria voi non lo sapreste che è una nave, cioè non dovreste neanche aver visto magari che la scendeva. Fate una prova di 27. Quindi più 19. 8 più 20 18. 19. 26. 15 più 19 l'unico che ho messo per adesso. Ok. Fatto bene a mettere. Chi ha fatto più di 15 si è accorto che cadeva qualcosa. Chi ha fatto più di 25 come voi ha visto proprio che era una nave, quindi potete anche Era una nave. Istra. Non ha gli occhi di un falco? Non eri l'esperto? Sentite. Cioè, infatti non sono sto granché. Sentite, magari non sarò bravo e fortunato come voi, ma cioè, cosa devo dirvi? Non l'ho vista, basta, non rompetemi. Io scoiattolo fa così al corvo. Siete bravi. È una nave molto... Complimenti. Ora capisco perché sentivo fastidio nei tuoi confronti. Non l'avevo realizzato. Comunque sia, era una nave. Ciò mi turba perché non è il posto delle navi, il cielo. Poco importa. A parlare è Junker e Shek. Dobbiamo proseguire nel nostro... Cioè, dobbiamo iniziare il nostro viaggio. Che tu. Quale direzione? Signore. Prima di partire ho intenzione di... avere un colloquio privato con ciascuno di voi per... Ma poi tu chi sei? Io sono... Non mi ricordo il nome. Io sono Khan. Ah, giusto. Khan. E sono ormai tanti anni chiuso in quella prigione, ma me la sono sempre cavata in un modo o nell'altro. Capisco quale modo, sicuramente. Esatto. E Ah, non era una battuta con il suo senso. Non c'era, scusate. No. E quello che sembra essere il tuo capo, l'umano. Non è il mio capo, quello è un lurido verme dell'impero che distruggerò una volta che avrà portato a termine questa missione. Comunque è stato lui ad assoldarmi, ha visto le mie qualità in battaglia e mi ha voluto con voi. Potresti mentire, potresti essere una spia del nemico, ma d'altronde quell'uomo non ti ha menzionato, non sembrava stupito dalla tua presenza, quindi non ho niente in contrario. Sempre meglio della cannibale, ripeto. Vorrei cominciare io in colloqui privati. Molto bene. Entrate nella sua cabina. Ok. Oh oh. Noi restiamo fuori sul ponte. Ho già visto che hai... Sì, esatto, poi chiamerà ciascuno. Allora restiamo fuori. Oh, okay. Ho già visto che hai particolari capacità magiche, ma il che ognuno di voi sia dotato in combattimento, questo lo do per scontato, onestamente. Sulla nave, quale ruolo potresti ricoprire con utilità? Se non ti viene in mente... Ho delle conoscenze, mi so orientare abbastanza bene. Ah no, survival no però. No, guarda, te lo dico subito, tu hai delle conoscenze in ingegneria, sei l'unico che le ha. Ah, perfetto. Quindi, cioè, sarai tu come me. Conosco il funzionamento dei motori... No, funziona motori, no. Sì, è un motore. Ah, dei motori... Anche a motore, oltre che a quindi, perché è un ultimo... E dei meccanismi di regolazione degli aquiloni, li ho notati, sono particolarmente interessanti. Potrei servirvi in questo modo, signore. Se sei sicuro di esserne in grado, a me sta bene. Credo di sì. Purtroppo non ho molti dati su di voi, né fonti ufficiali. Dovrò fidarmi delle vostre capacità. Le mie conoscenze sono leggermente... Scusa, dovrò fidarmi di quello che dite. Ah, ok. Le mie conoscenze sono leggermente antiquate, tuttavia la tecnologia di questa nave... Ho capito comunque come funziona. Bene, se non ci sarà nessun altro che vanterà doti migliori delle tue, non c'è, sarai solo a occuparti di questa cosa. Ok. Posso rivolgerle una domanda? Qual è il suo rapporto col divino, con la divinità? Sono ateo. Allora, ci sarebbe un po' da vedere qua, cioè diciamo qual è il rapporto dell'impero col divino, perché il rapporto che fa l'impero è quello che ha lui fondamentalmente, perché è stato educato e cresciuto. Il problema è che dovrei proprio... Sei bellissimo. Cioè, nel senso, ci sarebbe... Più particolarmente con una divinità, con la dea per eccellenza. Immagino lei si riferisca a Verikir, una delle più potenti. Esattamente. Non ho mai avuto nulla in contrario contro il suo culto, nonostante probabilmente magari l'impero abbia fatto qualche cosa contro, perché appunto, cioè, qualsiasi cosa potesse prendere il sopravvento sul potere è sempre stata prontamente stroncata. Ecco. Tuttavia non sono un creditore devoto in questi... Creditore? Credente. Un credente devoto. Creditore. Paga! Ho capito. Soprattutto in tuttavia dalle sue movenze ho colto che lei è particolarmente, diciamo, ha un dono della dea, dal massacro che ha svolto l'altro giorno in prigione. Può vederla come vuole, lo scopo aveva uno scopo efficiente, non voleva idolatrare nessuno. Ho capito. Ho capito, grazie. Prego, è congedato. E meno domande in futuro comunque. Ok, me l'ha dato lei il permesso, no? Sì. Beh, però capisato. Cioè. Certo. Quindi tu sei culto di Verikir? Sì. Chi è Verikir? La dea della sofferenza, giusto? Sì, della sofferenza. Ok. Mi convoca uno ad uno. Che non so, fare un dialogo ciascuno. Certo. Risulterebbe un po' ripetitivo. No, certo. Ecco. Alla fine della... dopo un'ora circa, perché si tratta di colloqui brevi come questo, d'altronde, ognuno di voi è stato... No, aspetta, però forse con te varrebbe una pena farlo un colloquio, perché io lui ti affiderebbe un ruolo di mozzo, perché non so cosa faresti giustamente su questa insieme a un'umana, quella che si chiama Corinne, quella che sembra abbia ucciso la sorella, no? Ecco. Non è la cannibale, vale. Tranquilla. Per la cannibale, per cuoca, Azalea, dire cuoca. Ho pensato il ruolo di cuoco. Normalmente non prenderei una scelta così macabra, ma il vostro master ha uno strano senso dell'umorismo. Morirò di fame. Capisco che lei non ci può fare niente. Tuttavia, eviterei opporsi se può, ma vedo che non può. Va bene. Va bene, cazzo. Io mi oppongo. Tu e Isra. Mi hai detto Conjure Food. Che sei secondo livello. Cos'è tutta questa agitazione? Sono molto brava a preparare pietanze. E quello che ci spaventa. Ho avuto anni e anni di esperienza. Cosa sono quegli anni che ci spaventano? E molti amici per cena, per citare. Per citare Anima. Tu e Istra siete stati affidati al ruolo di vedetta per via delle della vostra... Io sono un capitano di nave, non sto a fare la vedetta. Il mio corvo fa... Sono l'unico sicuro! E lui il capitano, non puoi fare anche tu il capitano. No, col cacchio! Vuoi fare capitano? Io pongo! Dai, facciamo il colloquio allora. Sta bene, il ruolo di vedetta puoi sempre svolgere anche tu quello di mozzo, oppure passare il resto del viaggio ai ceppi. È la tua scelta. Io ti ucciderò alla fine. È un ruolo più che onorevole e adatto al tuo livello. Ti è andato bene. Il mio livello è guidare questa nave, stare al timone. Ognuno deve fare... No, ovviamente no, perché lui è più forte, quindi... No, in ogni caso. Solo perché è più forte non vuol dire che sia più bravo. Ha più esperienza nel comando. Comunque, se volete, se non vi sta bene il mio ruolo di comando, possiamo esprimere una votazione, ma penso già che. A me sta molto bene. Una votazione. Spezzare di tine a tutti. Che dicono di no. Ma penso già, ma vi avviso, nel caso non dovessi risultare io, non ho intenzione di aiutare questa spedizione. E il mio aiuto vi sarà sicuramente utile. Se muori, infatti. Ma è solo con lei, stai parlando? No, sto parlando con tutti. Non ti opporre allo svolgimento degli eventi. Che tu sei sulla mi lista. Sembra che abbia già dimostrato di essere più che un valido comandante, quindi. Anche, adesso mi ricordo che l'avevo segnato, ma anche molte delle persone che hanno trovato un occhio sono con sé, vogliono lui come comandante, perché pensano che sia comunque anche lui molto motivato per il fatto che anche lui ha trovato un occhio nella tasca. E anyway, cioè, inoltre, di cagassotto. Ritengono non mi viene la parola. Inestimabile, ecco, il suo supporto alla missione, quindi non voglio rischiare di perderlo. Ho una domanda. Ma io non posso fare tipo non so la cuoca. Insomma, no, guidare la nave, sì. Ma nel senso non da capitano, nel senso timoniere. Purtroppo quel ruolo è già stato assegnato al nostro Halfing Werinbert. Ma non ci arriva neanche il timone. Questo è divertente. Ma non può farlo da vedetta? Almeno tanto se è piccolo, si butta tu sei con me, cocca! Chi è questo? Questo è l'Halfing. No, questo è Istral. Ma santi Dio. Ah, Istral, ok. Non cercare di soffiare il mio ruolo di vedetta. E il mio ruolo quale sarà? Ti ucciderò anche a te. Tu e Atral, che è il drow compagno della cannibale. Un drow è un elfo oscuro. Okay. Un elfo oscuro di pelle. Tra l'altro poi c'ho delle immagini di ciascuno di voi. Ah, perfetto. Però ce l'ho sul telefono, quindi lo faccio. Vabbè, ce l'ho per questa. Ecco. Cioè, di Werinbert ce l'ho. Se vuoi puoi anche postare sulla chat di WhatsApp. Proprio aggiungimi la chat. Aspetta, se posso ti metto io. Adesso. Chi è l'admin? Non lo so, forse io vediamo. Sì, sei tu. Puoi aggiungere anche la chat. Sì, infatti. Vabbè, aggiungilo adesso. Sì. Dicevo. Voi sarete i responsabili della sicurezza e dell'ordine sulla nave. Vi siete sembrate due persone, tra le due persone più adatte a questo ruolo, per il vostro spirito, diciamo, da un lato di fedeltà, dicendo ad Atral Gol, e dall'altro di disciplina, se non muoco. Scusa, che ruolo ti ha dato? Sicurezza sulla nave. Ah, figo. Mi sento un po' insultata, perché non mi è stato dato il ruolo di sicurezza, come se io non lo fossi. Cioè... lui è. Ligio. So bene qual è il crimine che lei ha compiuto e sicuramente questo ruolo non è adatto a lei, visto che si fa prendere spesso dal temperamento e non è in grado di prendere la decisione giusta e fredda. Dica, ha fatto degli studi su ciascuno di noi? O solo su... Se è stato un crimine noto lo conosce. Ok, okay. So anche tu lo conosci. Non credo che conosca il mio passato. Ancora no. Isola da sua... Certe volte il nostro passato è oscuro persino noi stessi. Esatto. E il mio ruolo quale sarà? Dice Baka. Esatto. Mi sta la tua possente forza, Baka. Professore di matematica. Sarai Baka. Sarai responsabile del carico. Ah. Quale carico? Sarà tuo compito scoprirlo innanzitutto, visto che sei il responsabile. So cioè, perché. Vedi se c'è in giro qualcosa nella nave, tipo per esempio valuta quanta slatite c'è, sti cazzo di madonna. Ogni volta che devo prendere una mela, devo chiedere il permesso al barbaro. Come basta, faccio un giro della nave per vedere se c'è qualcosa. Beh, allora, di utile non vi è molto. Sono state stipate qualche provviste, ma non tantissime, perché sanno che avete comunque i vostri mezzi per rifornirvi. e tipo hanno supposto che avesse, se fosse in grado di procacciare, e comunque sarebbe stato futile mettere dal castello, vabbè, qualcosa c'è, tipo che duri, che dura un mese di provvista. Ah. E la Zalakite invece è a sufficienza, deduci dalla... Ah, posso, faccio una prova? Sì, ma è abbastanza bassa. È abbastanza... vabbè. Un overkill. 20, sì, anche 20, il numero di secondi. 27. Ecco. Il numero di secondi. Esatto. Ma direi... No. E dovrebbe a seconda di quanto ne consuma il motore per azionare questo scudo, dovrebbe bastarvi per 3 mesi, 2 mesi di viaggio circa. Ho capito. Non ho capito. Cioè, la Zalakite che funziona come carburante. E non è proprio come carburante, ma serve per alimentare lo scudo che protegge la nave dalle future intemperie. Inoltre, sì, serve anche in parte come carburante, se non soffia abbastanza vento, può essere utilizzato per far spostare comunque la nave. Ok. Okay. Quando c'è un momento come morto, dimmelo. I due... Quando c'è un momento morto, dimmelo. Sì, dopo qua. I due Forgebrand, sì. Ah, no, ma tu sei da sola... a farla vedetta, scusa. Oh, bene, non c'è ho cambiato idea all'inizio, avevo fatto così, ma poi però l'ha fallito il tiro all'inizio e l'hai esatto bannato. I due Forgebrand, che sono i nani, saranno i cannonieri della nave. Questo è figo. Mentre Istral sarà colui che traccia la rotta, visto che è un esperto del deserto. Te l'ho già detto. Bene, adesso bene, noi nani siamo sempre stati vittoriosi dei cannoni. Quindi saranno un'ottima difesa. Ah, puoi contarci, dice. Ma sono due nani, quindi abbiamo 3 nani, ho preso lui. Sì. Sì. Quando io mi avvio verso la stiva dove c'è il mio carico per costruire tutto. Bacca fa un giro per vedere. Bacca mi vede, non so se vuole opporsi. Io lo ignoro. Decidi tu. Bacca fa un giro e fa una prova per vedere se c'è qualcosa di interessante che può... Dicevo, vabbè, oltre alla Zalakite e le scorte di cibo, sulla nave non sembra esserci molto di prezioso o utile. Ecco, ovviamente ci sono tutti gli strumenti per navigare, cioè, appoggiamento no. Certo. Nessuno credo interessato a seguirmi, così. Quindi vado a prendere direttamente nella stiva. È arrabbiata Elena. Ok. Vado nella stiva girando Baka che guarda tutto, che fa i calcoli. 2 mele più 2 pere. Come si chiama il tuo corpo? Sodoma, giusto? Sodoma, Sodoma. Sodoma, prova a suggerirgli, magari lo aiuti. Ve lo lascio lì a chiacchierare con voi, Sodoma. Okay. Io intanto scendo nella stiva e... Cioè, rendi conto che Sodoma è il componente più interessante di tutto questo. Perché è un corvo, quindi ha 10 punti in più solo perché è un corvo. Corvo piccino. Bene. Qua è Malber? No, trasferisco. Tutto bene. Gli altri 3. Ok. Vado a prendere? No, tanto. Vabbè, inizio a fare intanto. Ah, va bene. Così non c'è troppo più. Ok. La nave quindi inizia nella sua... Cioè, comincia la sua navigazione. Tu vuoi dire qualcosa? Sei andato... No, volevo solo dire che andavo nella stiva, se volevo sapere se qualcuno... Se Baka me lo impediva, visto che è responsabile. No, non te lo impedisce. Okay. Lui ti ha solo un'occhiata. Ok. E... però comunque cioè non togli che magari possa arrivare da quelle parti. Ah, sì, no, sì, sì, certo, non so se puoi... girando a casa, no, non è che... Beh, mi assicuro mentre sto controllando, mi assicuro che la porta sia chiusa. Serve un altro. Perfetto. Ok, perché sono 6 bicchieri, no, non ci si muore. Stavo 5 di due, dado ed anche Baka, siamo la prossima schede. Ma prendiamo la coca. Dove, quindi cosa mi sono persa? Niente, non ho detto niente. Lui diceva che era appena la stiva. Beh, quindi noi andiamo tutti ai nostri posti, no? Io mi occuperò subito. Io mi arrampico fino a... Poi non c'è sicuro un corvo, sei nato per stare. Scusa, che sono io? Io sono un pirata, cioè, mi metti alla torre di vedetta. Il mozzo sta alla torre di vedetta, altro che... Che il mozzo? Giulio, ricordami che è il mio... Mezzo. Lei e Corinne sono il mozzo. Sei lava. Giulio, ricordami che è il mio compagno di... Lava il ponte. Il tuo compagno è Dro di polizia. Tra il gol. Ok, ma io non so niente di questo. Come tu, perché dovrei fidarmi? Lo stesso motivo per cui mi fido di voi, nessuno. Nessuno qua sa niente degli altri. Todo metto la coca, certo. E la coca. E comunque non è che è tuo partner, cioè siete due responsabili, non è che. Ok, andiamo allora. Ma insomma, comunque sono responsabili tutti e due. Si devono fidare in un certo modo. Certo, sì. Devono far squadra, non è che sono io che sono da sopra. Io non mi fido di Corinne. Corinne si chiama? Sì. Non mi fido di Corinne. La conosco. Ok. Dovrai lavare dove lavare. Quindi io è normale che ci sia un clima di sfiducia all'inizio di questo, anzi all'inizio anche dopo magari. Cioè, quindi giù, qual è la reazione? Scusa, sei mozzo. Arin che è il vecchio, ti ha dato delle coordinate da seguire. La notte vedremo se erano giuste, esiste davvero questa stella verde nel cielo. Per ora proseguiamo seguendo questa coordinate. Spero di sì, ci siamo imbarcati per non so dove. Faccio un giro, studio bene i motori per capirci di più. Va bene, i motori sembrano cioè comunque di tecnologia molto avanzata, probabilmente è stato uno degli ultimi prototipi della nave dell'impero. Si vede anche perché è molto figa. Ecco. Molto figa. Questa nave è figa. Il mio parere tecnico. Poi ti ho già spiegato come funziona, cioè la Zaratite serve per devo ripeterlo. Dici per far scorrere più velocemente. Ok, certo. Hai detto due minuti fa, me lo ricordo. Pensavo altre robe della volta scorsa. No, infatti, però siccome mi hai chiesto altre info, che andiamo tanto da dire. No, volevo solo dire che giravo per... È figa. Per vedere quanto è figa. È figa, esatto. Per prendere più. Va bene, ok. Dopo all'incirca 5 ore di viaggio... I miei sono già abbastanza alti, eh. Si è fatto la scheda con Excel. Sì, perché è di coso. Dopo circa 5 ore di viaggio. No, devo capire cos'è che. Si è fatto la scheda con Excel, top. Ah, sì. Sì, la scheda cioè, l'ho trovata preimpostata. Poi dirai. Ah, pensavo l'avessi fatto lui, sei pazzo. Quanta vita hai da perdere? Cioè, all'università. No, ma poi è comodo. Io l'ho fatta prima di andare in università, ho fatto una scheda con Photoshop, l'ho fatta, poi adesso ovviamente. Dicevo, dopo circa 5 ore di viaggio, no? Iniziate a capire perché questo deserto è stato detto essere molto impervio. Vedete comparire all'inizio in lontananza, poi man mano che vi avvicinate capite meglio di cosa si tratta, delle gigantesche lame che fuoriescono dalla sabbia. Da sotto la sabbia. E lo vediamo pacificamente. Lo vediamo sì, tutti. Sì, è così. Quanto sono grandi queste lame? E allora... più grandi della nave? Sì, molto più grandi della nave. Minchia. Tipo questa qua, se è la sabbia, no? Così. La nave. Qua c'è la vostra barchetta. Ah, bellissimo. E qua c'è una delle lame. Minchia. Cioè spuntano così. Sì, esatto, così, no? Ma capiamo che virando si può risolvere la cosa? No, non è che non sono dappertutto, sono sparse poi là, cioè tra ma sono ferme. Sì. Sì, no, ragazzi, io pensavo che uscisse di Indiana Jones. Allora sono morti così. Ce ne sono, tipo fai anche perché essendo molto grandi non sono così tanti, però sono un po'. Abbastanza. E a un certo punto sentite comunque tipo grattare sotto la nave, capite che magari c'era una lama a fil di sabbia che non avete visto, che avrebbe completamente sfasciato la nave se non ci fosse stato lo scudo di Azeratite. Vado a controllare lo scudo e la sua tenuta. Torno giù, scusa, com'è che le chiamo io se le vedo da lontano? O sono molto visibili? Diciamo che non c'è bisogno della vedetta per vedere queste. Ok. Lame a babordo! Esatto. Mi stringo il mio bellissimo cappello. Il primo giorno trascorre tranquillo. Istra la giusta la rotta, tipo tenendo conto di queste. Non sarà facile, come potete immaginare non è che... Ah no, scusa, questo è Istra, ho sbagliato. Ah, esatto. Non sarà facile, bello. Non sono abituato a lami giganti che escono dalla sabbia. Terei almeno 400 metri tra noi e loro. Se possibile. È Istra che parla. Ma io lo sento, io sono sopra. Istra, attenzione. Mantieni l'attenzione per più di 2 minuti. Manterrei almeno 400 metri tra noi e loro. Mi non piacciono i tuoi modi. Cos'è che dicevi comunque prima che si distrasse di tenere almeno una certa distanza tra la nave e le lame? No, pensavo proprio di andarci contro, guarda. Grazie. Non sfioriamole. Il primo giorno, cioè dopo che vi siete, non so, volete fare qualcosa per andare a letto, se volete tutto. Io dormo sopra? Dormi dove vuoi. Per forza. Cioè, gli avevo vengono assegnati delle cabine. Bene, cabine. Io faccio il turno con... E siete... No, fate tutti a turno per la guardia. Okay. La do per scontato. Ah, anche il macchinista? Tutti. Bisogna essere riposato. Fine... tutti. Anche Jung intanto. La mia, il mio turno, diciamo, Jung. Il mio turno lo fa Sodoma. Jung. Il mio turno lo fa Sodoma. Povero. Povero Sodoma. Tengo comunque assente delle cabine. Aspetta un attimo. Ok, tipo, con te... Sei Khan, giusto? Tu con Khan vengono messe dormire lì, mentre... Chi? Con... Io. Eleni. Eleni, giusto. Eleni. Mentre con Baka dormono Avram e Damasco. Ci sono casualmente segnati insieme per comodità. Damasco? Damasco è lei. Ok. Avram, Baka. Voi tre. Corvo. Damasco. In due stanze separate. Adesso due corvi. Due e... due. Adesso due corvi. Vabbè, calma, eh. Oh. La mattina presto del giorno seguente, Azalea, che è la cannibale. Colazione! Dopo avervi servito la colazione... Io divento fruttariana. Chiaro? No, è estremamente appetitosa, ragazzi. Non va pensando che siete... Un po' sospetta questa colazione, è troppo buona per ragazzi, essere su una nave spersa nel deserto. Sì, infatti, contiamo le equipaggio, contiamoci. Contiamo i topi. Non trovate sono topi. Sodoma? Chi è che non troviamo? No, scherzo. Perché lo avvicinavo a te il piatto. Ragazzi. Dopo avervi servito la colazione, dice... Non vi preoccupate, vado via un attimo, non sentirete molto la mia mancanza. Fa così e scompare. Dinanzi ai vostri occhi. Ah, perché c'ha pure potere magici questa? Cioè, non fa proprio così. Va, e poi scompare. Però, così è la sì, nel specca. Senso che... Sì. 9 più un po'. Cos'è specchio? Vedi. Sapienza magica. Vedi cosa ha fatto. Scusa, ho fatto 27. Dal particolare schiocco di vita, capisci che si tratta di un... plane shift che cazzo sì è a livello alto beh di settimo quindi si tratta di un plane shift che in questa ambientazione può servire visto che non ci sono solo piani solo per raggiungere piani che si sono creati con un create demiplan ah bello hai ascolta capito? Ma quando torna quando torni non torna allo stesso punto sì devi tornare per fare allo stesso punto e la nave si muove. Ho detto che siccome c'ha lì tipo un catalizzatore per dove tornare a scalare, tornerà. Anche io ho visto che la nave si muoveva, ragazzi, però era da fare. Ok, quindi... va bene, ok, non ti preoccupare. E... torna, dopo un'ora in effetti torna sulla nave. Pare che la nostra amica abbia una camera più comoda della nostra. Con ancora la bocca un po' sporca di sangue che si affretta a pulirsi. Dove ha una dispensa molto fornita. Dovevo rendere grazie al mio signore demoniaco Cabriri, unico e vero. In questa terra. Ma ti dovevo vedere. Dunque che c'è un piano infernale dove tieni le tue vittime. Piano infernale proprio nel senso che è infernale certo. Perché è una merda sua. Deduci bene. No. Devo per ottenere i suoi favori devo pregare a mio modo per lui ogni giorno. Cioè lei la sua ora di preghiera, sai il chierico c'ha l'ora di preghiera. Ecco, la sua ora di preghiera deve anche fare un banchetto con carne umana, per forza. Non ti preoccupare, ti capisco. La religione sono esigenze. Sono sembra esigenze comunque parecchio di buon umore dopo aver fatto questa cosa perché erano cioè erano settimane che non glielo lasciavano fare anzi, che quelli dell'impero certo. Non glielo lasciavano ovvio, fare certo. Come a te non lo lasciavano studiare mm-hmm. E quindi la sera seguente la sentite che socievole no non è beh è un po' più socievole se la spassa con il suo compagno di esatto, camera chi è? È Atralgol se la sentite urlare di piacere dalla chi è Atralgol scusa? È il suo compagno chi è scusa? Ah ma il suo è proprio, cioè uno che era con lei il suo complice no? Ah cioè solo a che proprio il suo schiavo ok suo a quanto pare anche il suo ah non lo sapevo ok è un fighter una roba così sì esatto la sua guardia del corpo la che complice ah ok amante questo. Tutto il resto amante anche vi accorgete stasera e la mattina dopo Atra presenta delle ferite considerevoli lungo il corpo e le braccia da taglio. Quindi evidentemente chissà cosa fanno. Mazzo. Non lo voglio sapere. Però di dov'è? Tuttavia il secondo giorno non è questa la cosa più interessante che accade in quanto cioè, inizia subito con i due nani che si prendono a botte e si lanciano insulti. Fermi, compagni. Cosa succede qui? Anche Atran interviene in quanto anche lui... Si accettano scommesse. No, scusa, ok. Quel nano, figlio di puttana! Sono tuo fratello, coglione! Tuttavia, riesci cosa a succede? Cosa succede? Parla Evergreen, questo qui. Iniziano, vanno in direzioni separate, quindi a chi dei due lo chiedi? A un casaccio. Ok. Tira. Non so neanche chi sono. Ma niente, hai chiesto a Doldurn. Doldurn. Che aspetta, non mi ricordo. Non mi ricordo se è quello col terzo braccio o quello senza. Ah, bellissimo, c'era uno col terzo braccio. Da dove gli spunta? Boh, pensavo da qua, tipo. Sai, un artefice. O da qua. No, sono due livelli d'alchimista. Ah, che per poter, perché poi tutti gli altri sono da ladro per usare le balestre, no? Così. Esatto. Tu ve le ricarica. Tu potevi fare un terzo braccio. Non lo voglio fare il terzo braccio. Scusate, io potrei farne due di braccio. Posso farne due? Posso farne due? No. Solo uno? Allora no. È antisimmetrico, non mi piace. Ma guarda, non mi va molto di parlarne di quello stronzo. Cosa è successo? Io ho bisogno di mantenere l'ordine su questa nave, quindi devi dirlo. Fai una prova di diplomazia. A cui sommi il tuo carisma. E boom. Non ti suicideresti gradi. Meno 3. 5, 3, 2. Senti, devi mantenere l'ordine. Non è necessario. Allora vado subito a parlare con l'altro. Ok. Resta qui tu, un attimo. A prescindere di diplomazia non vuole dirti niente. Perché... Niente. Ok, non mi interessano le vostre beghe. In ogni caso voglio ordine su questa nave. Quindi sì, che non accada più. Sarà fatto. Un pace adesso, dice l'altro. Se volete anche voi potete provare a parlarci se avete interesse. No. Ok. Meno si sgozzino. Ma però avrei scommesso su quello col terzo braccio. Ah, perché io sono su, non vedo niente. Io non vedo, no? Io sono su. Beh, li vedi da sopra che si è fatto un po' d'acello. Devo usare il left prima. Beh, ma ce l'hai? Allora sì. Ok, questa notte però, mentre dormite... Non sentiamo più i ciccioli, vero? No. Bene, già da cosa. Esatto. È notte fonda, tutti dormono tranne Werimbert che sta facendo la guardia. Sì, scusate. Tuttavia viene da te, no, viene dalla tua stanza e quindi sveglia anche lei, no? E dice, sembra sconvolto e affrettato. Devi vedere una cosa, devo mostrartela subito. Prima dobbiamo svegliare anche Bacca, perché anche per lui ho una domanda molto importante. Sveglio, corro su. Correte, cioè, quindi da Bacca sveglia anche voi. Radice quadrata di cosa? Anche noi? Quanto fa? E Bacca che si dà anche voi. Ah, ci sveglia? Sì, beh, sveglia Bacca che è con voi, quindi anche voi vi svegliate. Ah, ok. Che cazzo. Quindi io prendo Bacca e vado su. Bacca, ho bisogno del tuo... Il mio sonno è molto importante. Puoi restare a dormire se vuoi, anche se ma forse sarebbe meglio l'aiuto di tutti per questa va bene, vengo. Che cosa sta succedendo? Si può sapere? Ok. Visto che era il mio turno di notte. Se sei così curiosa, vieni a vedere, non ho tempo di spiegare qua. Torna in fretta di tutta furia sul ponte dove stava facendo la guardia. Corriamo su. Io e lui. Non ci può essere di tanto affrettato. Quando salite sul ponte vi rendete conto che in effetti magari qualcosa di strano c'è. C'è una leggera tempesta, cioè un leggero vento che soffia un po' la sabbia in giro dappertutto. È una di quelle mitiche tempeste di Atlantide. No, calma, non è questa cosa che vi colpisce, questa qua è una roba abbastanza normale. La cosa che vi colpisce è che sul ponte è stato verniciato con una vernice rosso sangue una scritta dove è stato scritto "Siamo tutti morti". Con la deficiente di carnivoro ho già perso la testa. C'è scritto tipo "nemici dell'erede temete". No, siamo tutti morti. Okay. Nemici dell'erede temete. Non mi sembra... Ho te perché eri il responsabile di sicurezza. Pensavo dovessi essere informato. Non mi fido però del Drow. È un complice di un cannibale. Penso lo capisca. Sì. Stavo dormendo, non avevo mia idea di cosa possa essere. Se certo. Non c'è Simone, lo dico io, no? Facciamo perché hai svegliato me allora? Che cosa c'entro io? Questa è una bella domanda, in effetti. Per cosa posso avere Bacca? Molto semplice. Tu sei responsabile del carico. Abbiamo una vernice rossa su questa nave? E da silenzio Bacca, perché no. No. Non, lui l'ha contato comunque, l'ha fatta la cernita. Sì, l'ha fatta. Okay. Esatto. Quindi è sangue. No, non è sangue. No. Ho già controllato, è solo... Anzi, faccio l'attimo. Ecco, bravo. Che non arriva al timone. Ma non capisco da dove possa venire. Beh, può essere stata creata con un incantesimo. Quindi il cerchio potrebbe restringersi a soggetti che possono creare. Questo, infatti, era uno dei motivi per cui avevo chiesto al responsabile del carico. Quindi? Per restringere il carico. Cioè, ovviamente io sarò sospettato, in quanto ci fa così, so usare anch'io la magia, ed ero l'unico sul ponte. Cosa vi dovete credermi? Non sono stato io, perché dovrei fare una cosa del genere? Sense motive. Ma tu non hai visto niente. Stavo giusto... questa è la cosa straordinaria. Stavo controllando meticolosamente la nave, quando a un certo punto una cosa ha attirato l'attenzione al di là delle dune. Mm-hmm. L'ho guardata per un istante, e subito dopo era comparsa la scritta. Cosa poteva essere? Sono stato io. Sentite? L'erede di Sapeverde? La voce no. Venire dall'alto. Ma che diavolo. E come cosa? Quando alzate lo sguardo, vedete il fantasma di... Mio! Neil Haberton. Umano che... Io ci ho creduto per un po', eh. Questo fantasma. Seriamente? Seriamente? Io voglio il mio fantasma, è Cervantes, no? Siamo tutti cazzo morti. Di cemento e scemo. Tu di sicuro? Giusta osservazione. Siamo altro che spiriti condannati a viaggiare in questo inferno deserto. Scusa, ma tu cosa dove l'hai presa la vernice rossa? Infatti, tra l'altro. Mi sembrano queste domande da fare. Sì, quindi risponditi. Da dove arrivi? Cosa ne sai? Io non sono cucita, quindi... Non c'è tempo. Perché ci dici queste cose? Perché anche voi dovete riconoscere la vostra condizione. Dovete capirlo. Voi siete morti, come me. No, beh, calmo. Ti sposti rapidamente, segui la velocità della nave. Sì. Bravo. No, ma i fantasmi non è che... Cioè, si fruttano, ma possono... Sono come gli uccelli, no? Si mettono... Sì, esatto. Ok. Saluti, ok. Ma, tipo, spiegarcelo meglio invece che dire... Non mi sembra fantasmicamente non c'è niente da spiegare, è così, e basta. Ora accettate questa cosa. Bene, il discorso mi sembra anche torno a letto. Non torno a letto. E provate che avete capito. No, cosa hai detto che dobbiamo suicidarci? Togliete la vostra, toglietevi quella che credete sia ancora la vostra vita. È l'unico modo che avete per rompere questo incantesimo. Mi tiro un pizzicotto al massimo. Cioè, ok, io. Se non volete riconoscere questa condizione, sguaia la spada e la pistola. Anzi, no, scusate, lascia e la pistola, perché dobbiamo lasciare una mano e una pistola. Allora dovrò forse farla riconoscere io. E dietro di lui compaiono 8 Wright. No. Oh madonna! Io come no, c'è il TS per danno la caratteristica di questo, non sono come io. Non ce l'aveva detto nessuno che era psicopatico, però, eh. Io avevo detto Wright. Io vorrei chiamare. Quella sono io. Giunca Shack. Ah. Non hai il tempo, come vedi che stai per correre a chiamare, si tira l'iniziativa. Iniziativa. 27! Decido di suicidarmi. Okay. Cazzo, ho fatto 20! Ho sprecato un ci credo! Ci credo e uccido! Ben uno, un attimo che... A cui sono mostrato. Dai, 15 più 6, 21. 21 anch'io, però mi sa che vai prima tu. Io ho fatto un ben 8 in totale. Prendi un... Cosa serve quello? No, prendi un fazzoletto. Perché? Per quello, no, sì. Ah no, forse... If you understand. Che ce l'avevano detto che era psicopatico questo tipo, ragazzi. Cancello? Sì, puoi cancellare. Regà, ho sprecato un 20. Quant'è che sono in iniziativa? 6. Sì, vai avanti tu. Ah, pensavo di andassi tu. No. Adesso mi aspetto quel corvo di ca... I morti non parlano! Non avevo fatto caso... Ah, io ti ho anche per lui. Sì. Non avevo fatto caso che l'archetipo che ho scelto mi viene tolto un incantesimo al giorno. Eh sì, minchia, non hai fatto caso, l'unica cosa negativa. L'avevo anche segnato e non mi ricordavo. È l'unica cosa negativa che ha. 9, quindi più 5. Ma quindi volano, scusate, vero? Stanno volando. Eh sì, sono fantasmi come lui. Non benissimo. Volano i rat? Certo. Cioè, ok, mica tanto. Stanno fluttuando davanti a voi. Lui 14, io 8. Un attimo che devo pigliare le schede. Già 8 right. Sì. No, niente, sono in campesimi questi, sto decidendo cosa fare. Ah, comunque anche dei Labyrinth che cioè, nel senso, è un po' convincente, c'è anche un bel completino di terze parti che sono un po' più cos'è che è? Però l'ho un po' nerfato. Non ho capito niente. Lui ha capito. Comunque Templetino di terze parti. Template sono dei set di aumenti di caratteristiche, okay, di abilità che mette i mostri. Fatto che le cose di terze parti sono tutte sgravissime. Terze parti sono che non ha fatto, perché tutto questo materiale che noi usiamo l'ha fatto la Paizo, che è quella che ha fatto Pathfinder. Poi secondo me è un materiale che può usare chiunque può farci su altri regolamenti, no? Ah, ok. Ci sono altre ditte che però, non so, per convegno probabilmente sono cose meno bilanciate. Però, sì, non si sa bene perché, non sono sempre bene capaci. Alcune vengono bene, ma... La maggior parte no. Manzoma. Sì, infatti. Quindi, iniziative, dai. E 21. Comincia lei. Sì, allora. Prima lei. 21. Posso fare una prova per... mi pare che siano immuni a Mind Affecting. Sai che non capirò mai dove va l'H nel tuo nome, vero? Avraham. Ormai ho scritto la prova di me. Avraham. Senti, posso fare una prova per di conoscenze e religioni? Pare che siano immuni a Mind Affecting, una roba del genere. Sì. Sì, puoi farla. Scusa, tiro proprio... Dove? Quanto è totale? 14. Beh, allora è una conoscenza molto comune, perché sono non morti. Non morti sono tutti immuni a Mind Affecting, quindi anche uno solo 14, okay, lo sai, perché non è una roba che riguarda solo loro, quindi basta che lo sai su uno scheletro, sì, diciamo. Sì, esatto. Mind Affecting sono tipo dei... No, no, sono tipo robe tipo suggestion, cose mentali. Tanto beh, meno male, visto che non sono... Allora, dicevamo, poi tu, mi sa che... 8. Aspetta che can... 8. In totale. 27. Damasco. Sommo 7, ho fatto 8. Minchia. Poverino. 7. Si dadi già mi sta sul cazzo. Ho fatto un 2 e un 1. Eleni. 21. Baka ha fatto 14. Baka 14. Guardate per loro. Oggi 4 più 28. Non so neanche se. Dopo vi dirò perché. Senti, ma non, perché egli ha battuto in iniziativa di culo. Perché ha fatto un 20. No. Ma senti, ma ovviamente con 14 non so se vedono l'invisibilità true seeing. No, ci mancherebbe. Cioè, sui write, aspetta. Per i write, dico. Devo vedere un attimo quanto è la DC. Ma se no posso fare una prova di spellcraft per capire se c'è... Il write con 14, no, non lo sai. Che sfiga. Che sfiga, minchia. Ma invece... Però puoi fare il tiro su Hey Labyrinth per capire che cos'è, esattamente. No. Una prova di... Per capire cos'è è quello che sa fare, più o meno. Una prova di... Per i non morti pare sia knowledge religion. Sì, hanno armi? E Alberto sì, loro 22. No. 22. Che arma? Non basta. Un pochissimo. Cosa gli vuoi? Tutte e due sotto uno, quello che devi fare. Ma invece, posso fare una prova di spellcraft per vedere se hanno true seeing? Ah, quello sì. Ah, dai. Stavolta ho fatto alto. 20. Cioè, non è proprio. Dovresti fare una roba. Penso che dovresti fare. Detect Magic per vedere una cosa del genere, comunque non puoi vederla dopo, di avere su Arcane Sight oppure non puoi farlo così niente. Ho fatto alto, vaffanculo. Tiri di merda. Allora tu devi riuscire a fare un attacco touch in mischia. Un di 6 points di disegno. Aspetta che qua metto praticamente hai un disegno. Cos'è il white, scusa? Di danno per cos'è due caster levels, massimo 10 di 6. Ok, madonna. Sono i sotti di fantasmi. Quanti sono? 8. Prendi temporaneamente degli hit points. Ragazzi, 25 più Werinberg. Uguali al danno che fai. Il l'altro. Cosa non l'avevo capito. Poi, you can così lo faccio anche vedere, visto che ce l'ho qua. Poi tu puoi avere anche... Ah, bellissimo. Che figo. Possiamo guardare... Sì, per non c'è problema per le statistiche. Comunque un magus soggetto che... corrente. Ah, che è figo! Il point del soggetto corrente. Grande. During combat cos'è che fa? Ah, è un Eldritch Shion con la carisma. Sì, fa anche. Cos'è che faceva? Ah, sì, ci siamo, direi 29. Tiro salvezza, tempo. Più o due, più due verso Poison Spells e SLA. Sì, sì, sì, sì, sì. E tiro, tiro. Ma non hai quel più due. Non supernatural. Dici che non. Non sarà vero. Però, beh. Fallo per bacca. Comunque, veramente. 12 più 11, 23. Passato. O Frostbite. Cazzo, però. È Frostbite. Gioca basso un po'. Credo che riducano un po'. Gioca basso un po'. Però, beh, vediamo quello. Ok, comunque, prima ad agire è lui che avanza verso... Lo stronzo? Sì. Figlio di puttana bastardo? Sì, esattamente. Merdaio, figlio di merda. Pirata. Sì. Cane? Sì. Okay. Che gli ha battuto tutti l'iniziativa. Come ha fatto la decisione? Ti avrà qualche super califragile. No, e resta dov'è? Ma quindi già non ci abbiamo le armi in mano? Sì, sì. Sì. Le avete state quando avete visto... Se prende un Natural 20... No. Resta lì? E spara con la sua pistola a Avram, che è lì davanti. Preso. Avram e basta, che sa che è un mago. Sì. Ah, sono tutti compatti? Cazzo, non posso prendere. No, non l'ho preso, cazzo. Colpisce una 30... Colpito. Quanta c'è di avere? Che... Quanta è? No, di 8. Sarà un di 8. Qua c'è. Un dado da 8. Morre qua. No. Non serve più, non serve più. Ma voi non avete controllato l'equipaggiamento di Labert dopo che era morto? Non sapete cosa fate. Scusa, è sparito dopo che era morto? No. Ah, ha detto che spariva? Sì, se non era. Allora ve lo lascia questo, l'equipaggiamento di Laverton. Ok. Non mi ricordavo, dicevo, ma... Vabbè. Mica era sparito? Sì, sì, ho sì, detto che spariva perché volevo farlo ricomparire così, però si vede, capite, di settimana. Comunque, sì. Ok, prendi... No, che stolto. Vabbè, sì, comunque... Ok, prendi... One billion tre. Ma l'ho messo da dire, non so di più. 100,000 billion. Alla fine non l'avevo messo perché. Cioè, perché non ci stanno quei talenti. No, ho preso soltanto 8 danni, dai. Più un tiro salvezza morte. No, perché quello è soltanto. Cioè, però. Ah, perché tu sei fuori, non sei ancora scosso, quindi. Ah. E non fa, l'ha fatto perché non fai furtivo. Meno male. Perché ecco perché non ho messo i game, perché lui deve fare danni con i furtivi. Però finché non sei scosso non può fare Shatter Defense, quelle robe lì. In effetti potrebbe attaccare, quindi attacca K che è scosso anche lui, su cui vi fa... Fai il secondo attacco? Sì. No, facciamo che era questo. Ho sbagliato perché la sua tattica è attaccare quelli scossi. Però... Quindi? Non so se lo cambio, faccio che ha attaccato subito come Baka. Vuoi, decidi tu. Baka o K? Baka. Considera quanto sia... Ah no, K scusa che non ha... Cioè, Subaka c'ha, potrebbe avere qua. No, beh, non è vero, c'ha tutta la visuale c'ha anche libera Subaka. Subaka perché sa che ha distrutto tutte le cose, quindi Subaka. Lo ritiene più pericoloso. Per ora. Quindi, sì, dai, c'ha anche fatto subito Subaka. Quindi col primo attacco gli fa uno Shatter Defenses. Cosa c'è? No. E quindi diventa vulnerabile, cioè diventa flat-footed per in pratica lui è scosso. E quindi gli fa un furtivo. Se gli fa i danni, se gli fa danni mentre è scosso, impreparato, sì. Lui è flat-footed contro i suoi attacchi. Cosa lì? Ok, impreparato e quindi prendi danni da furtivo. Il secondo attacco quindi è un attacco furtivo. Sono un 100 billion trino. No, ma va. Cioè, dai, non è così forte, sono solo 5. Esatto, solo 5. Cioè, sì, una minaccia di critico con un 20. Ok, sì, forse saranno billions of billions perché... Un cestino di 6. No, vabbè, non si moltiplicano con il time, non è così grave. Confermato con un altro 20. Mi piace questo dado. Comunque. È il mio? Sono... No. Danni sono 6. E 1, 7 più 2... Allora, scusate, 6, 7. E 4... 11. Il Barbaro c'ha la super resistenza alzata. Più 4. 18. Il Barbaro non è ancora in Irlanda. Infatti, per quello dicono, non ce 18. L'ha. 18 danni. A lui. Sì. Non è un critico. Aspetta, poi ci sono i danni a furtivo. Comunque, no, non fa tanti danni sul critico. Lui. Ma i danni a freddo se non sbaglio, no? Sì, sì, sì. Meno 18. Sì. 10, 14, 7, 21. Altri 21. Madonna. preso un po' così. Quanti danni ha preso? In questa mano ne ha presi 43. Okay. Dopo il right tocca a Damasco. Cioè, scusa, dopo il right, dopo... Hey. Ah, io sono qua? Sì. Figa, sono lontanina. Ragazzi, non è che... Cioè, mi interessa... Cioè, non so, te non è che cambia, perché tu ti devi spostare per forza. Io non mi devo spostare. Io faccio, devo... faccio sicuramente haste, diciamo, nel vostro... Sì, sì. Devo essere a 30. Ma che sei dopo di me? Qua, due quadrati me. Sono due quadrati sono esatto, un piede. Sì. Cinque piedi ti conviene. Come scusa, due quadrati sono. No, due quadrati sì, sono 10 piedi. Devo spostare, due quadrati intende. Quindi perdere anche un attacco. Quindi due. Uno. No, non sei due, i... tre. Ah, forse no. Quattro. So. Cinque. Sei. Minchia, sì. Cosa sì? Sono entro 30 piedi io. No. Se vai davanti lì non puoi colpire perché sei tutto ostruito. Ok, ma vado davanti, cioè nel senso qua sono 30 piedi. Se vai lì sì, però ostruisci A, che vabbè non è un problema, quindi sì, va bene. Chi è? Avram. Tu hai bisogno di niente, visuale diretta? Sei netto davanti a te è un problema? Chi è? Tu sei E. Sì. Tu hai bisogno di... Devi essere dentro 4 quadretti per fare il touch, però. 20 feet sono qua. 30. Io mi sposto però. Sì, ok, ma però il range della pistola non è 20 feet, scusa. C'è scritto forse. Scusa, ma non si... Sì, ma non si allunga feet. Con il più uno dei 30 no. feet? No. Resta allora comunque 20? Certo. Io cosa? 100 feet? No? Sì. E allora... Poi, cosa attacchi da... Sì, ti sposto qui. Cioè, il problema è che dopo io mi sposto per attaccare ti mi vado davanti a lui perché lui non ha bisogno di sì, va bene, va dove bene. È il lì mi passate il pennarello io devo vedere Bacca ho bisogno di vedere Bacca ma lo vedo sì lo vedi io mi metto solo qua lo vedo no? Mi metto se io mi metto magica? Qua no ok. Perché dovrebbe essere male? Niente, chiedevo. Dai, cosa fa? Come non è magica? No, non puoi. No, no. Non è incantata? Non si incantano le pistole? No, l'ha incantata perché non la so. Sicura? Ragazzi, non... dove cazzo mi metto? Ti puoi mettere qui? Ti puoi mettere qui o qui? Esatto, perché lì in mezzo tesoro. L'ho attaccata a B. Attaccata a B? Per forza, però non ci arrivo. Scusa, sono una, due, tre, quattro per forza, devo star lì. Figa, sono davanti. Sì, forse un po' potrebbe. Ragazzi, io davanti, cioè... Aiuto. Vado, va bene, faccio... Aspetta, che lì sei dentro i suoi 30 feet. Sì. Quanti a settembre? Ma ascolta, un attimo. Qui lui c'ha quest'aura gigante. Vabbè, non io fanno. Devo essere dentro 20. Sì, fai tutti a settembre. Se vai lì, fai tutti a settembre. Cosa devo fare? Beh, loro l'hanno fatto. Appunto dico... Noi... Cioè, scusa, lui e Bacca l'hanno fatto. No, dico, lei non lo sa. Sì, ci vede scossi. Cioè, nel caso... Beh, gliel'avete detto. Cioè, perché potrebbe... Ma gliel'avete detto? Magari... No, vabbè, non è che te l'abbiamo detto, perché è passato niente, però ci vedi scossi. Lo vedo. Cioè, che mentre arrivi lì ci vedi che noi che siamo vicini allora siamo, no, siamo così. Sennò qui... Non è il caso di andare lì. Va bene. Qual è il range... Tu se vuoi sparargli per fare il touch lo devi per forza entrare nella sua aura. Scusa, non posso mettermi di qua? Comunque, cioè, non fai il touch, certo. Ma poi anche metti davanti a aura, ma a quel punto. No, ma è davanti. Ah, ok. Cioè, ti voglio indietro. Certo. No, perché sennò non entro nei 20. 1, 2, 3, 4. Se vuoi entrare nei 20 sei per forza dentro sui 30, no? E se non entro nei 20 30. Non sparo. E allora devi sparare. Prendi meno a tiro per colpire. Grazie al cazzo. E non fai attacchi touch. Tanto comunque ok ma questa dai, cosa non fa niente ben poco lo scoprirai fai okay, sotto le salvezze è per tutto la per tutto sì, tutto sì, non sì, c'è un sì, posto vuoto sì. Vabbè cosa devo fare tiro non cosa lo sapresti ma sì tiro cosa tempra posso fare una prova di spellcraft scusa posso fare una prova di spellcraft per capire non è spellcraft questa prova sì, no per capire se è un incantesimo ah no non puoi perché comunque non lo è. Vado? Mi sembrava legittima come domanda. È una verità. Ma no, devi vederlo castare, sennò non puoi riconoscere ad occhio l'incantesimo. Ah, 21? Al tiro per colpire? Sì. Cioè, ma anche da quello che fa, capito? Mancato? Touch, no? No, non è touch. Sì, è touch. Mancato comunque. Vabbè, hai fatto 3. Quant'è che hai fatto? Ok, ma ho più 18. In tutto. 21. No, 21 c'è touch. Che ha touch, vabbè. Tanta destrezza. Molta destrezza. Va bene. Credo dopo Damasco. Aspetta, ma scusa. Cioè, tocca a lei, però. Vabbè, ma io ho tre colpi. Passare lui. No, sei mosso. Giusto, che coglione. Tocca a lei. A lei. Però direi che può posticipare dopo di me. Posticipa poi lui? Allora, Avram. Anche perché io ho lo stesso problema. Chissà un bright di quanto si muove. Tu, se vuoi, puoi vedere che le sue armi non sono incantate. E fare una prova di... No, l'hai già fatta su non morti, ma... In generale. Fai un'altra prova di conoscenze religiose. Io? Ok. Quindi sai che essendo creature in corpore, sono immune a tutto ciò che non è magico. Non è magico, certo. Quindi lei è completamente inutile. Inutile. E anche io. No, tu sono immuni a tutto ciò che non è magico. I miei archi cantano solo le mie frecce. Mi dispiace. Vabbè, mi metto indietro, ragazzi. Vado sulla torre di vedetta. I miei archi cantano. Vabbè, magari vuoi... Anche se le mie frecce sono incantate nello stesso. Sì, sì. Su questo, questo è un grave problema. Faccio un bel list. Sì, quello ve lo faccio, sicuramente. Sto considerando altre cose. E quindi anche Bacca cosa fa? E niente. Ma questi a che altezza volano, scusa? Sono no, però sono per terra. Ah, ok. Senti, per ora mi limito a ciò. Ma sì, Iolo. Ah, bravo, gliel'ho data. Io non c'ho qualcosa che colpisce in fila. Werinberg, dico. Qualcosa che colpisce in fila. No. Cioè, esiste un talento. Cazzo! Dopo tanto. Tanti dopo non c'è niente di vincolante, puoi prendere anche le cose più schifose. I Brights mi ricordo che sono super pericolosi, lo so. No. Lo so. No. Sono pericolosi. Poi non sono pericolosi. Io ho sciolto quello che c'è davanti. Super per l'epoca. Senti, facciamo così, Iolo. Comincio Summon Monster 6. Con la mia full round. Perché hai fatto ritardare lei allora se non fai... Perché faccio haste. Sodoma! Ah, ok. Fai haste. Io faccio... Con un full round faccio... Maledetto corvaccio, dice. E con la mia swift action... No, aspetta. Sì, con la mia full round evoco un... Cioè, non evoco niente, comincio. Faccio haste. E con la mia swift action che ho ancora faccio vanish. Ci provo, sempre una difesa in più con una swift action. Giusto, bravo. Perché sennò te l'avrei attaccato questo qua. Perfetto. Ah, quindi fai bene. Deduco che non vedono. Ok. Questo è basta. Quindi avete tutti più uno a tiro per colpire, più uno alla CA. E vabbè, poi un attacco in più, ma quello non è cosa forte. Ok. Ah, avete no. Un attacco in più. Provi. Se fate, se non vi muovete, ovviamente. Chiaro. Ok. E basta, io ho finito. Ok. Tocca a Eleni allora. Cioè, possiamo fare che prima ho lanciato Danilo, possiamo fare che prima ho lanciato Vanish e poi ho cominciato a castare. Ah, giusto, bravo. Metti, no? Va bene, sì. Quindi noi abbiamo tutte e due più meno due se per colpire e meno due alla CA. Sì, d'altronde vai per entrare prima o poi. No, CA no, meno due se per colpire e meno due TS. Quindi non posso. Ah, ti sorpresa, ok. Posso avvicinarmi. Ho detto. Vai, cosa fai? Io direi che ti dovrai pure avvicinare. Mi avvicino. Cioè, vai addosso. No, non so perché poi ti viene accerchiata. Quindi, non hai qualche buff da lanciarti molto forte, robe tipo che ti rende fortissimo. Bapaua. Tu lanci di che livello, scusa? Terzo, mi pare. Quarto? Ma l'hai detto tu? No, non lo so io. No, mi hai detto. A livello 12 catti già di quarto. Dire. Figo. Se lanci di quarto. Sì, è due terzi cast. E ho Bird of Speed. Burst of Speed. Ah, ma non ho tirato per me. Anche quello di terzo. Poi dimmi un po' in cazzo. Metti alto basso, meno male. Fiotto acido. Sì. Di terzo e di quarto. E insomma, tanto. Sono 23 iniziative. No. Sì, Team Trail. Vampiric Touch. Mm-hmm. Black Tentacle. Ma buono! Invisibility Greater. Sì, vabbè, Tentacle non so se funziona. Contro di loro, sono incorporei. Ma se dovessi avvicinare, ma sono invisibile, devo fare per forza il tiro salvezza tempo. Dimension Door e Adjustable Polymorph. Hai preso giusto un po'. Non lo so, cioè nel senso... Black Tentacles non credi che funzioni? Non lo so, vuoi cercarlo. Che sono incorporei, dici, però forse è un po' incantesimo. No, sai, no, non funziona, perché dice non funziona su niente, cioè sono immuni a trip, varie cose, e niente che possa manipolare il loro fisico o il loro equipaggiamento. È chiaro. Quindi no. Allora, vabbè, mi avvicino. Hanno freedom of movement. Sono bravo che me li sono guardate queste cose. Quindi mi avvicino e prendo il tiro. Sì, però, cioè, no, ma non gli puoi fare un incantesimo a distanza? Non so. Cioè, perché il fatto è che se ti avvicini a loro, poi vieni magari accerchiata. Sì. Di ciò che e non è ciò che movimento hanno loro. Scusa, in che senso a distanza? Però, io posso lanciare incantesimi a distanza? Sì, non i raggi, tu non lo sai. C'hai i raggi, no? Molto 14. L'altra volta. Ah, ho già il raggio rovente, quindi è quello che chiedevo prima. Lui posso usarlo anche se è da fuoco? Ah, ok, allora sì, era quello che intendevo. Raggio rovente. Raggio rovente, buono. Se hai l'arte incantato, sai che è meglio, in teoria. A meno che non vuoi fare che... Sì, esatto. A meno che non vuoi fare che prepari l'azione, chi arriva a portata lo colpisci. E posso fare tutte quelle cose? No. Puoi fare, preparo un'azione, il primo che arriva, sbam, gli do una sberla. Questo è il No, voglio fargli raggio rovente. Va bene. A chi? Da lì vedi bene sorgi uno, Questo. Cioè, non so che uno... Ma lei dov'è? Ah, è qua. No, vedi bene anche H, dai. No. No, perché è spostarmi qua. Non ha così niente, ha cover. Quindi faccio quello. Cover. Cioè, più 4 la CA e ce l'ha. Danilo si è laureato in cover adesso. Ho fatto tutta la giornata a studiare queste cose. Sì, ci siamo fatti una cultura. Magari, io non ho se tu ti sposti dire. Qua... La freccia che va dove cazzo. Potrebbe essere comodo, perché loro sì, magari la cerchia qua e fare... Non lo so. E perché comunque prendevo il tiro. Ah, prendi, ok. Allora. Capito. Perché lei è arrivata qua e quindi l'ha preso, quindi credo che... Ah, perché c'è quello che passa per il... Devo fare sempre... Tiro per colpire, touch. Dai, veloci, che sennò dura troppo. Sì, sì, sì, dai. 2 più. Visto che ho poca memoria, lo stoppo sulla battaglia. Dai, stop. Vediamo com'è andata la battaglia che ho tagliato nella registrazione. Sostanzialmente è durata lunghe ore di gioco in cui... personaggi hanno dovuto fronteggiare gli Horrid Wrights, 8 Horrid Wrights che gli hanno mandato contro il malvagio fantasma e l'hanno fatto uno dopo l'altro per poi scontrarsi contro il fantasma stesso. Avram ha evocato 3 bralani, 3 outsiders che hanno interposto tra il nemico e i suoi alleati muri di vento che sono riusciti a deflettere alcune pallottole. Il tutto anche potenziando i propri alleati sempre con Haste lanciato attraverso il Corvo Sodoma. Per quanto riguarda Damasco si è rivelato, le sue pistole si sono rivelate inefficaci contro i demoni, contro gli spiriti, perché non magiche, quindi uno dei due magus ha buffato le sue pistole rendendole magiche con Magic Weapon Greater e riportando Damasco all'effettività. Baka si è fatto strada nel combattimento con la sua incredibile potenza e lo stesso ha fatto il monaco arciere Zen, che cavolo si chiama? Khan. Il tutto spalleggiati da due magus che tiravano giù colpi e buffavano gli alleati, quindi un combattimento appassionante, soprattutto considerato il fatto che lo spirito più temibile era connotato da un archetipo ultra sgravo, pazzo, malato, selezionato dal master in prima persona tra il materiale di terze parti, e si vede, visto che emanava sostanzialmente un'aura di paralisi, per cui se non si superava un tiro salvezza fortitude CD27 si rimaneva paralizzati per un round, quindi non vi dico, sostanzialmente Avram è rimasto paralizzato per 2 round di fila, sfuggendo al colpo di grazia, solo grazie al fatto che i suoi bralani sono intercorsi, sono raggiunti per salvarlo con roccambolesche situazioni e salvataggi all'ultimo minuto. Insomma, molto, molto emozionante, però non c'era abbastanza memoria sul disco, sul registratore, quindi tutto ciò è quello che resta, il mio goffo racconto, la mia goffa ricostruzione. E niente, torniamo alla riattivazione del registratore per pochi minuti prima della fine della sessione. Clicco! Sei laggiù! Il fantasma scompare! Mi ha fatto grido! Che esatto! Il fantasma scompare e sono giù le chitarre. Chi ha fatto grido? Slash roll. E lascia giù? Che cosa lascia giù? Chi se lo segna? Me lo segno io. Una belt of incredible dexterity. Oh, questo ce l'ho due. Minchia. Ah, più due. Più due? Io quanto ho? Più due. Più due. Io ce l'ho già. Aspetta, scusa. Una bellissima. Aspetta, non sono pronto. Perché lo scrivo io intanto? No. Intanto non sono pronto adesso. Ok. Allora, quindi, belt of incredible dexterity. Belt of dex. Yes. Più due. Okay. Masterwork padded armor, che è una merda, che non è caso. Cos'è che è? Un'armatura di pelle. Io non ce l'ho, mi servirebbe. No, perché perdi bonus. Ma se è un'armatura di pelle, è una giacchetta. Beh, io la metto qui e gli spicci. Vabbè, al massimo la vendiamo. Cioè, poi una lascia la mano NX+1. Magari la riusciamo a vendere a qualcuno. Mm? Carnivora. Lascia la mano alla carnivora, magari la pelle gli piace. Poi 589 monete d'oro. Questo è già mio. Quanto? 589 solo? Sì. Che braccino sto qua, è un poveraccio. Siete per l'equipe, sto pirata. Oh. È un poveraccio. E una più uno Sky Pistol. Questa è mia. No, è mia. No, è che mia. Fai tu? Che c'è? Perché non hai già lei? È mia. Che se la compra? Sì, no, se ovviamente devi comprare dall'equipe del gruppo, ma cioè, tu sei sempre capace di una Sky Pistol. Sì. Esatto. Non è che la prendi gratis, ma... Ah, ok. Sì. Infatti devo dire perché se sei arrivato gratis. No, però se la prenderà. Cioè, la conosco da due giorni. No. Mi deve già... Anzi, probabilmente giù dirà. Non devo che cosa? Non ti devo niente. Mi ruba già gli occhi. Giallustro. Cosa fa questa più uno Sky Pistol? Beh, l'hai già notato da come la usavo. In pratica non ha bisogno di essere ricaricata in nessun modo. Ok, ma io anch'io ho bisogno di ricaricare quello che ho. Però questa non ha bisogno di talenti. Beh, si pensa, visto che io ho trovato questa cosa interessante che esiste. Cioè, di ritrenarlo, dici? Consiglio di ritrenare qualcosina. Di? Ma adesso? Proprio quando... Per una settimana. Cosa vuol dire ritrenare? Che scambi talenti vecchi. Sì, no, ma dico... Lo posso fare ora, nel caso, o lo faccio... No, lo puoi fare anche adesso. Cioè, però adesso te quando? Cioè, anche gli allenamenti sono bene. Però... Vabbè. Nel breve. Perché esiste questa, cioè in teoria esiste, è una pistola speciale, si chiama Pistol of Infinite Sky, una roba del genere, no? Che ha questa abilità qua, però è anche più 5. Se guardi però, cioè il costo è esattamente come se quell'abilità gli fosse un più. Ho capito. È una abilità più. Io quando è che come sono un po' stretto con i soldi, ho detto vabbè queste cose qua giusto possono anche esistere. Quando è che recuperi key points? Quando dormi, quando ti svegli. Dai, boh, andiamo via. Grazie. Figurati. Anche se siamo a metà sessione, ma comunque. Madonna, vedi che lo scontro qua. Sì. Disagio.